Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Noi che digiuniamo in Quaresima, al confronto siamo delle mezze calzette. Si chiamavano catari. Erano degli eretici che tra il 1100 e il 1300 si sono espansi in tutta Europa. A combatterli con predicazioni e anche molti miracoli c'era anche un frate portoghese di nome Antonio che in queste zone diciamo che conosciamo bene. I catari però non si limitavano a digiunare, a far penitenza, a sottoporsi a pratiche di mortificazione. Facevano ben di più. Per loro il mondo in cui viviamo non è solo preda del peccato, è totalmente malvagio. Il corpo, la materia, secondo loro era tutta sotto il potere del diavolo, solo l'anima era protetta da Dio. Rifiutavano il sacramento del battesimo perché fatto con l'acqua, l'eucaristia perché sotto le specie materiali del pane e del vino e persino il matrimonio. Criminalizzavano totalmente la sfera sessuale che vedevano come diabolica. Alcuni di questi catari, cataro in greco vuol dire puro, si lasciavano persino morire di fame, la pratica terribile dell'endura. In questi giorni i cristiani festeggiano la Pasqua, Cristo che con la sua morte e resurrezione salva l'uomo, riscatta totalmente la sua condizione. Ma dov'è questo riscatto? Per secoli il cristianesimo è stato accusato di promettere la felicità e la redenzione solo nel mondo ultraterreno, nell'aldilà, nel paradiso. Allora, dove sta la differenza con l'eresia dei catari? Se la salvezza è solo nell'altro mondo, che senso ha migliorare la nostra vita su questa terra corrotta e schiava del peccato? Cristo salva l'uomo solo per donargli il paradiso o lo salva già su questa terra? La dottrina sociale della Chiesa, che di questa terra si occupa, trae origine dalla resurrezione di Cristo o è solo una serie di proposte umane, piene di buonsenso e null'altro? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. La salvezza, che per iniziativa di Dio Padre è offerta in Gesù Cristo ed è attualizzata e diffusa per opera dello Spirito Santo, è salvezza per tutti gli uomini di tutto l'uomo. È salvezza universale ed integrale. Riguarda la persona umana in ogni sua dimensione, personale, sociale, spirituale, corporea, storica e trascendente. Essa comincia a realizzarsi già nella storia perché ciò che è creato è buono e voluto da Dio e perché il Figlio di Dio si è fatto uno di noi. Il suo compimento, però, è nel futuro che Dio ci riserva, quando saremo chiamati, insieme a tutta la creazione, a partecipare alla risurrezione di Cristo e alla comunione eterna di vita col Padre, nella gioia dello Spirito Santo. Questa prospettiva indica precisamente l'errore e l'inganno delle visioni puramente immanentistiche del senso della storia e delle pretese di autosalvazione dell'uomo. La salvezza che Dio offre ai suoi figli richiede la loro libera risposta e adesione. In ciò consiste la fede, attraverso la quale l'uomo liberamente si abbandona tutto a Dio, rispondendo all'amore preveniente e sovrabbondante di Dio, con l'amore concreto ai fratelli e con ferma speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Il piano divino di salvezza, infatti, non colloca la creatura umana in uno stato di mera passività o di minorità nei confronti del suo creatore, perché il rapporto con Dio, che Gesù Cristo ci manifesta, nel quale ci introduce gratuitamente per opera dello Spirito Santo, è un rapporto di figliolanza, lo stesso che Gesù vive nei confronti del Padre. È con noi Don Marco Cagol, responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Marco. Grazie a voi, buona giornata. Don Marco, tornando al ragionamento di prima, al di là delle tante differenze che c'è tra l'eresia catara e la religione cristiana, qual è la visione del mondo delle due dottrine? In che cosa differisce? Ma credo che il testo che abbiamo letto della dottrina sociale della Chiesa ci dia proprio la misura, quello che è il senso profondo, ecco, del cristianesimo come lo intendiamo noi, come la dottrina sociale della Chiesa lo intende rispetto a proprio questo tema della salvezza, questo tema di ciò che Dio e di ciò attraverso Gesù fa per l'uomo. Si parla, abbiamo sentito, della salvezza integrale della persona che in qualche modo comincia già a realizzarsi nella storia e anche se evidentemente il compimento definitivo di questa salvezza è in qualche modo riservato a quello che poi sarà la vita futura, la vita della piena comunione con Dio. Diciamo che il cristianesimo, il cattolicesimo sono sempre stati accusati di aver dato eccessiva importanza alla salvezza ultraterrena, quasi deresponsabilizzando la persona, il cristiano, nell'operare per migliorare le condizioni di questo mondo. Ecco, questa poteva essere un'accusa appunto rivolta ad alcune eresie, ecco, cristiane, ma non certo al cristianesimo così come inteso dalla tradizione del pensiero cattolico, del pensiero appunto classico della Chiesa, ecco, come abbiamo sentito nel brano della dottrina sociale della Chiesa. In che senso con la Pasqua Cristo salva l'uomo? Ma intanto perché in qualche modo potremmo dire così, sfonda le porte della morte, ecco, porta l'uomo al di fuori del vincolo, al di fuori del giogo della morte, e spalanca, diciamo così, le porte della risurrezione. E dopo perché diciamo in questo la bellezza, ecco, del mistero pasquale è che Cristo non è che la bypassa la morte, ci passa attraverso e però la apre alla vita piena, alla vita, diciamo così, alla vita nuova. Ecco, Cristo non risorge dai morti per una vita che poi morirà ancora, ma risorge dai morti per una vita piena, una vita che non dovrà più fare i conti con la morte. Ecco, questo è il pegno in qualche modo che Cristo, con la sua risurrezione, passando attraverso la morte in croce, quindi attraverso il mistero pasquale, come dire, promette all'uomo. Nonostante la Pasqua e la risurrezione di Cristo, però il mondo rimane preda del peccato, parliamo insomma del peccato originale? Sì, diciamo che nell'uomo rimane, diciamo così, questa ferita che la tradizione cristiana, la tradizione biblica in qualche modo fa risalire all'esperienza del peccato originale. E di fatto Cristo libera, ecco, da quella colpa originaria, da quel peccato originario, ma le conseguenze, ecco, rimangono ancora, tracciano ancora, segnano ancora il cuore dell'uomo. Però, ecco, la dottrina del peccato originale è molto interessante anche sul piano sociale. Perché? Perché ci dice sostanzialmente una cosa, che quello che noi vediamo di negativo, di non buono nell'uomo, non è qualcosa che gli è connaturale, cioè è il frutto di uno sfregio al disegno originario di Dio. E come tale, poiché non c'era all'inizio, in realtà la Bibbia ci vuole dire che non necessariamente questo, quello del male, quello del peccato, quello del limite, non è il destino ultimo dell'uomo. Quando la Bibbia dice e parla delle origini, in realtà ci vuole parlare di quello che è il destino ultimo, di quella che è la chiamata ultima dell'uomo. Se l'uomo all'inizio era privo dei segni, delle tracce del peccato originale, era nella piena comunione con Dio e con le altre creature, questo significa che questo è possibile e sarà possibile. Non è tanto le origini, ma è proprio il destino ultimo, è la fine, è il finale. Quindi, quando noi troviamo l'uomo cattivo, tra virgolette, o con dei segni di cattiveria, d'egoismo, non dobbiamo mai rassegnarci a questa condizione, perché è possibile per l'uomo sempre riscattarsi e ritrovare, diciamo così, il disegno vero e profondo che Dio aveva inscritto nel momento in cui l'ha creato. Cristo viene proprio a far questo, cioè a rendere possibile l'inizio di questo percorso di liberazione dalle tracce delle ferite del peccato originale. Ci fermiamo qualche istante, Don Marco, torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, via. via senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca. Don Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa. Oh, foresta non è soltanto un segno di protesta, ma è un rifugio per insetti e un nido per gli uccelli che si amano tranquilli tra i miei pensieri e il cielo. Sono la parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Non sono venuto in motocicletta, non mi sono pettinato con le pomme a mano, non ho messo le dita dentro la spina, non mi sono lavato con la candeggina. Sono uno di quelli che porta i suoi lunghi capelli per scelta e non usa trucchi. E voi levatevi la parrucca. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Nel mondo vivo sempre insieme ai miei capelli. Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento con Don Marco Cagol e stiamo parlando di Pasqua. Pasqua intesa come salvezza dell'uomo da parte di Cristo, ma salvezza solo nell'aldilà o anche nell'aldiquà? Grazie Don Marco per essere con noi. Grazie a voi. In che modo la salvezza di Cristo si riflette nella storia dell'uomo di oggi qui in questa terra? Sì, un po' lo dicevo anche prima, cioè il fatto che ciò che diciamo così a volte deturpa l'immagine dell'uomo, deturpa le relazioni, deturpa il suo impegno per il bene, ecco, nella misura in cui questo è frutto di una ferita che Cristo viene a riscattare, ecco, significa che tutto ciò che anche nella storia, nelle relazioni sociali, in qualche modo a volte, ecco, si impianta in maniera storta, cioè va a deturpare anche la dignità della persona umana, ecco, questo però l'uomo ha sempre la possibilità di non rimanerne completamente avvinghiato in questa situazione. In questo senso, allora, anche l'impegno per liberare l'uomo dall'oppressione economica, sociale, del lavoro, nella politica, nei diritti umani, eccetera, è in qualche modo la concretizzazione storica di questa possibilità di liberazione che Cristo ha in qualche modo scritto con la sua con il mistero pasquale, insomma col passaggio attraverso la morte, nelle mani dell'uomo, ecco. In questo senso qui, allora, l'impegno per la liberazione dell'uomo dai giochi della vita sociale è, in qualche modo, va nella stessa direzione della salvezza che Cristo ha portato a livello del peccato originale. Ma la dottrina sociale della Chiesa non è che l'applicazione del Vangelo, abbiamo detto in questi mesi, nel sociale, nella vita terrena. Senza la risurrezione di Cristo avrebbe senso una dottrina sociale? No, direi proprio di no. Infatti il cuore della dottrina sociale, paradossalmente, è comunque sempre il mistero pasquale, perché il mistero pasquale colloca nel punto giusto, dà il motivo vero, ecco, e profondo, per cui dal Vangelo noi possiamo anche dire qualcosa su tutte le esperienze sociali che l'uomo fa. Il mistero pasquale ci rimanda al significato ultimo di ogni esperienza, e alla luce del mistero pasquale ogni esperienza umana, pensiamo per esempio al lavoro, può essere vissuta nel suo orizzonte più vero, più profondo. Nel mistero pasquale, cioè in questo passaggio dalla morte e dalla risurrezione, all'uomo è data la possibilità di riscattare continuamente anche la fatica, anche quello che a volte è doloroso all'interno dell'esperienza umana, e di portarlo verso, diciamo così, la pienezza, ecco, con anche questa consapevolezza molto liberante, e cioè che ogni sforzo terreno dell'uomo non è, cioè verrà portato a compimento da Dio alla fine, così come è Dio che risuscita Cristo, no? Il Padre che risuscita il Figlio, nella Bibbia si dice proprio in questi termini, è stato Dio che ha risuscitato il suo Figlio Gesù, così Dio prenderà tutto quello che l'uomo ha fatto, ha compiuto, ha costruito, ha realizzato, e lo porterà a compimento. Quei tratti molto terreni della dottrina sociale della Chiesa vanno collocati dentro questo disegno, cioè sono pezzi, ecco, pezzettini, sono tratti, pezzi di questo sentiero che conduce alla pienezza, alla piena comunione dell'uomo con Dio. Siamo nell'anno della fede, quindi anche la fede in qualche modo può migliorare la sfera del sociale. Penso all'esempio di Monsignor Nervo, di cui ieri si sono celebrati i funerali, che ha, grazie alla sua immensa fede, fondando una creatura fantastica che è la Caritas, reso già in questa terra un pezzo di paradiso, se mi può essere concesso. Assolutamente. È la fede. Beh, Monsignor Nervo veramente è stata per noi una grande perdita, anche se adesso sappiamo che abbiamo, come dire, un padre nobile, ecco, che forse sta nel cielo proprio a intercedere per noi, a proteggere anche la sua chiesa, ma anche i poveri, insomma, che lui ha sempre amato. E sicuramente la sua azione è stata mossa dalla fede nel Signore. Fede del Signore che amava i poveri, i deboli, ce l'ha ricordato anche in questi giorni Papa Francesco, e lui diceva anche questa cosa, Monsignor Nervo, e cioè che la più grande povertà oggi è proprio la povertà di fede, cioè l'uomo senza la fede è più povero, perché ha meno speranza, cioè è meno, ecco, rischia di essere travolto e di non vedere una via di uscita rispetto a quelle conseguenze del peccato originale che sperimenta prima di tutto in se stesso, ma poi anche in alcune situazioni e strutture che a volte incrostano la società. Senza la fede, ecco, c'è il rischio di pensare che alla fine ciò che vince è l'ingiustizia. La fede invece ci aiuta a dire no, comunque la giustizia trionferà per mano di Dio, e quindi vale la pena di operare per la giustizia nella carità. Abbiamo poco meno di 30 secondi. La vita eterna, di solito siamo abituati a pensarla come un qualcosa che dovrà cominciare, ma la vita eterna non comincia già qui adesso? Certo, grazie alla venuta di Cristo e al mistero pasquale, ecco, noi siamo già stati immessi nella vita divina attraverso anche il sacramento del battesimo, e quindi già di fatto noi iniziamo già in questa vita grazie allo Spirito Santo, grazie alla, come dire, alla redenzione del Signore Gesù, iniziamo già la vita eterna. Certo, noi dobbiamo passare attraverso lo scoglio della morte, ma in qualche modo già qui noi possiamo vedere i semi di questa vita divina che poi godremo in pienezza dopo la nostra morte e la nostra risurrezione. Anche nella vita sociale. Certo. Grazie Don Marco per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima, sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul podcast sul nostro sito, potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.